Ora, io non mi dico che cos'è che ha detto il professore Taormina, di provare a chiamarlo, eh. Che dici? Lo il chiamiamo? Professor? Taormina, il professor Taormina. Ma bisogna per forza, quello non vuol parlare con me poi. Lo so che ogni volta, però io ci proverei perché ha detto, ha già sentenziato il professore. Tu che cosa? Sulla vicenda di Fermo? Sì, ha detto l'arrestato di Fermo, agito per legittima difesa. E che ne sa lui? E che, non lo so, il solito immigrato violento. Che indagini ha fatto? Il solito immigrato violento, ha detto. Vabbè, chiamiamolo, dai ragazzi, chiamiamolo, dai. Fatemi il numero del TAO, eh. Tanto ce l'abbiamo là sempre sotto mano. Pronto? Avvocato? Chi è? Sono Cruciani, ciao, come stai? Oh, ciao, tu come stai? Ma non c'è male, me la cavo. Ti seguo. Senti, ma ho letto che hai scritto una cosa su Twitter. L'arrestato di Fermo ha agito per legittima difesa, Giovanardi aveva ragione. Tanto. Il solito immigrato violento e Alfano sempre inopportuno. Come ha agito per legittima difesa, scusa? Eh sì, c'è una dichiarazione di un testimone oculare, il quale... dice che appunto c'era stata un'aggressione nei confronti di quello che è stato arrestato. Ma questo è da verificare. Che della... Sì, beh, so, secondo quello che dice questo qua. Tu già sei arrivato alla conclusione, agito per legittima difesa. Siccome hai scritto pure il solito immigrato violento. Appunto. Certo, se fosse così sarebbe un immigrato violento. No. Hai già fatto il processo su Twitter praticamente. Signori, scusate, ma sono veramente molto occupato. No, aspetta, Carlo, aspetta, prego, un attimo. Prego, parla... Allora, io voglio capire una cosa, scusa. Tu hai scritto: l'arrestato di Fermo ha agito per legittima difesa. Punto esclamativo. Esatto. Il solito immigrato violento e Alfano sempre inopportuno. Questa è una sentenza, non è? Forse, come, quando. Non posso fare sentenza. C'è un testimone che è definito testimone oculare, il quale dichiara che ha visto quest'uomo malmenare quello che è stato arrestato. Dopo che quello gli ha detto scimmia, La donna, e poi la donna si è aggiunta nell'aggressione, dopodiché c'è stata la reazione da parte della persona che era aggredita, che gli ha dato un pugno, un pugno e quello è morto. Allora tu hai scritto il solito immigrato violento, hai scritto. Certo, ma qual è, perché il solito? Ovviamente perché violenti. Ma come, gli immigrati sono violenti? Per me sì. Per te gli immigrati sono violenti? Sì, va bene. No, scusami, perché sono violenti gli immigrati? Spiegami. Perché normalmente abbiamo degli episodi continuativi in tutta l'Italia. Tu hai detto di solito sono violenti. Di solito io trovo immigrati violenti. Ma scusami, ma perché non prendi in mano alla situazione, allora, dato che sei così convinto? Difendi questo Fermano, questo ultra di destra. Se mi chiede di essere difeso, io lo difendo, non c'è nessun problema. Professore. Buonasera. Aspetta, buonasera. Carlo, aspetta un secondo, aspetta un attimo, scusami, aspetta, che modo è? Come che modo è? Che modo è? Ma che modo è di andare via così, scusi? Ma a parte il fatto che tu sai che sei, essendo un buffone, con te non voglio parlare. Ma di chi parli? Mi riferisco a Parenzo, ovviamente. Piacere Parenzo. Piacere Parenzo, perché sei un buffone, te lo dico. Piacere Parenzo. Ma che c'entra adesso buffone? Non c'entra niente buffone adesso, fallo parlare almeno, no? Come al solito, fallo parlare. Come al solito, hai perso un'occasione. Io non voglio avere occasione. Hai perso l'occasione di non dire una scemenza. Hai perso un'occasione, allora, come al solito. Allora continui. Ma continui che? Ma uno può scrivere che è il solito immigrato violento. Certo, perché non lo posso. Ma che certo? Certo. È come se uno dicesse: ecco il solito Taormina. Io ho letto. Ma è come se uno dicesse: ecco il solito Taormina. Testimonianza di chi? Ma che si fanno così i processi? Un testimone oculare, ma che tu eri lì, da cui risulta quello che ha visto. Il commento allucinante è quello che hai fatto sul solito immigrato. Ognuno la pensa come crede. Però scusami, Carlo, io vedo immigrati i quali normalmente si comportano da omicidi e da aggressione. Mamma mia. Tu vedi qualche altro, io vedo. Che miseria, mamma mia. Le miserie, ognuno misura. Che miseria, guarda, che miseria. Finito? Ma io non ho capito, ma perché gli devi dare del buffone senza che parli? Perché gli devi dare del buffone subito? Ma perché gli devi dare del buffone? Che miseria. C'è niente da fare. Che miseria. Finito? No, non è finito niente, perché... uno che dice queste cose razziste nei confronti degli immigrati, incredibile. Mamma mia. Beh, un po', cioè, quando uno dice il solito immigrato violento, beh, ti ha detto che sei un razzista, io ho interpretato. Ma che interpretato? Una dichiarazione resa da un testimone oculare. Punto. Ho capito, hai detto il solito immigrato violento, va bene. E l'ha arrestato, agito per legittima difesa. Hai praticamente sputato una sentenza, questa è la realtà. Beh, perché io faccio le sentenze. No, non le fai, a parte che lei non le fa. L'avvocato, lei dovrebbe. È vietato fare le sentenze, faccio le sentenze. Non vi piacciono le sentenze, non mi rompete i coglioni e basta. Qual è il problema? Ma ho capito, ma se Parenzo. Vuoi chiedere scusa? Dice scusate, ma di che cosa devo chiedere scusa? Ma tu mi stai sempre a rompere i coglioni che devo chiedere scusa. Ma devi chiedere scusa tu di esistere e di non rompere i coglioni alla gente. Ma che guarda, la vergogna di quello che hai scritto sugli immigrati, rompere le scatole al prossimo in questo modo, la vergogna contro tutti gli immigrati. Come si sentono gli immigrati quando hanno letto quella roba lì? Vai a fare un altro mestiere. Ma come si sentono gli immigrati? Che vergogna proprio. Va bene, buona serata a tutti. Mamma mia.